Se adori inusitata io veder ti chiedea, ragion possente a ciò mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde lungi sarò. Che dici? Pei franchi di amici sciolgo la vere, ivi trattarme dato le sorti della Scozia. Di lasciarti, astommi vegga, io stenderò placato a lui la destra, e la tua destra pegno fra noi di pace chiederò. Stirpe il reo persecutor dei mali miei, ancor pago nove, mi tolse il padre il mio retaggio vito, ne basta che brava ancor quel cor feroce rio la mia perdita intera. Il sangue mio egli voglia apporre. Tornaci in quell'ira estrema, fiamma ardente in sé mi scorre. Oh,